Scendi per strada col ferro nella mano, colpi nel petto e dopo c'è lo scamo. Le vostre voci, spari di pistola, non ho paura, man, vi tengo per la gola. Fatti gangsta, solo con i deboli, merda in culo. Se andate contro demoni, sante parole contro male lingue, sangue e sudore di chi sta merda spinge, falsità di chi amico tuo si finge, verità che a sta vita ci costringe, costretti a tacere per fare piacere a gente che morti ci vuol vedere. Voi vi spaventate dopo che parlate, montate, montate, solo cazzate, preme quel cazzo di grilletto, io muoio ma ti scordi il rispetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Se dove chi sta volti esempi. Prendete in 5, volete i miei soldi, vi vengo contro, sentirete vetri rotti. Non mi interessa, non avrete ciò che volete, e se lo volete dovete baciare questo sedere. Mi puntate il dito ma attenti a ciò che fate, vi mettete contro il rapper che pratica karate. Volete far giustizia a vostro modo, si sa, mi dispiace, questo è il mondo, mica GTA. Rubate auto per fare rapine, fate ostaggi per stuparvi bambine. Vi fate schifo, non dovreste vivere. Il padre nostro dall'origine ha stabilito un quieto vivere, ma purtroppo è ceduto per le troppe toppe, perché è sempre esistita la legge del più forte. Ed è per questo che il mondo va a puttane, va tanto a puttane, che di tanti figli nel padre. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. E non è ancora finita, DJ Badio, non c'è rispetto. Fanno i gradassi con i più drezzi, ma con tipi superiori si stanno zitti. Vai per strada con il ferro in mano, all'esplosiva più di un vulcano. Non hai amici, questi sono i fatti. Non hai amici, te la prendi con gli altri. La tua vita si è chiusa in un ghetto. Di chi gli altri così pensi di aver rispetto? No, così combini solo guai. Ti fai così più nessuno ti verrà incontro mai. Lascia col ferro cadere dalle mani, per pensare a quel che succede, pensa al domani. Qualcuno ti aiuterà portandoti con sé, la vita si aprirà come le acque di Mosè. Se tu e la pace finalmente insieme, questa è quando tuo figlio dirà: babbo, ti voglio bene. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto addirittura tra la gente proveniente dallo stesso ghetto. Non c'è rispetto. Non c'è rispetto. Non c'è rispetto. Thank you.